Daniele da questa parte. Sera Daniele, Carlo qua. Ciao Carlo, ben sentito. Sta da parecchio che non ti sentivo. Tu è che non c'eri, io c'ero anche ieri sera. Avrei trascinita. Perché io a volte sono al lavoro, oggi ho finito il turno di mattina, sono rientrato alle 2 a casa, appena finito di mangiare, e stavo provando lo strumentino di controllo dell'SVR nuovo, se funziona, pare che funzioni egregiamente. Brava, brava, benvenuta. Che strumentore, Carlo? Allora, si tratta di un Diamond SX100. No, questo è un ZG. No, questo già è bellino, pare che si illumini pure, però non ho collegato il cavetto che c'è dietro, capito? Però adesso stavo provando a regolare la potenza e vedo che come abbasso mi abbassa tutto. Bene, bene, bene, bene. Bene, anche io me devo apprezzare perché c'ho due ZG, però già lo sai che non c'è poco da fidarsi con quegli strumenti della ZG. Danno lì, insomma, un punto di riferimento all'acqua di rose, diciamo. Sì, sì, anche io non ne ho sentito parlare troppo bene da alcuni colleghi anche più esperti di me. Mi avevano consigliato questo, che molti lo usano e si sono trovati bene. Oltretutto io l'ho preso usato, ma è come se fosse nuovo praticamente. L'ho preso su eBay a 57 euro, più 7 euro e qualcosa di spese di spedizione, con 65 euro praticamente l'ho preso quasi nuovo. Mi ha mandato ancora la confezione originale, le istruzioni, c'ha tutto il polistirolo, eccetera. Le istruzioni sono in inglese, ma le ho trovate anche in italiano su internet, per cui non è un problema. Meglio così, dai, meglio così. Hai fatto un affarone allora. Sì, perché a volte lo vendono intorno alle 90, tra spese di spedizione e tutto, ti costa quasi 100 euro se non di più. Ho detto tentiamo la fortuna, provo a prendere questo che ho visto su eBay, ho detto mi sembra buono, ed è qualcuno che magari si è stufato e stava, perché ho visto che lo stesso venditore aveva altre cose, altre apparecchiature, radio CD eccetera, magari qualcuno che stava svendendo tutto, capito? Se stava liberando, dai, già capita, ogni tanto trovi queste occasioni, qualcuno se ne dice e poi si ricompra tutto e fa una sorta di riciclo, dai. È un bel po' di propagazione sto sentendo, ma c'è troppo bailame, diciamo così si chiamava, ai miei tempi, quando c'erano troppe voci sotto e non si capiva niente. Vabbè, qua ancora tace tutto, tace tutto. Già si sente qualcuno ogni tanto che arriva e... però va e viene, dai, il 45 ancora è zitto e speriamo più presto di iniziare a fare qualche collegamento. Sì, diciamo che tra un po', magari col bel tempo, iniziano quelle giornate che c'è propagazione, ma in questi giorni qualcosina è entrato, perché io ho anche uno di quegli orologi che sono radiocontrollati e prendono il segnale, no? Col cambio dell'ora lo mettevo fuori dalla finestra, prendeva il segnale, si cambiava da solo. E invece quando c'è stato sabato scorso il cambio dell'ora tra sabato e domenica, l'avevo messo fuori e non ha cambiato, ho detto strano. Ho riprovato ieri, che ho visto che in radio c'era un po' di propagazione, l'ho messo fuori, o gli ho fatto io forzatamente l'aggiornamento dell'ora legale, si è aggiornato subito perché ha preso il segnale, capito? Perché anche quello viaggia con la propagazione, è un segnale radio che mandano dall'Istituto Poligrafico di Torino, capito? Cavolo, bellina questa storia. Bene, Veda. Davide si è accorto che si era un po' aperta la propaganda. Sì, esatto, sono quegli orologi della Citizen, quelli EcoDrive. Ce ne sono alcuni modelli che sono radiocontrollati, per cui ti fanno tutto in automatico, ovviamente se li metti in posizione favorevole quando ci sono i cambi dell'ora legale, con l'ora solare, capito, oppure qualche ritocco anche sui secondi, sono precisissimi, senza batteria. Io ce l'ho già 3-4 anni, non ho mai cambiato la batteria, perché si autocarica, diciamo, dal display, no? Lo devi mettere sempre sotto fondi luminose quando lo tieni a casa d'inverno, che magari prende poco sole perché ce l'hai sotto gli abiti, quindi devi stare attento a non farlo mai scaricare del tutto. Bravo, bella storia. Come piacciono queste cose, vedi, si dica. Bene, veda. Ma per caso senti anche il sottofondo del QRA? C'hai il microfono più amplificato. Cappa, questo è il 60. No, siccome stanno usando moletta qua fuori, stanno facendo dei lavori, se portando appresso, sicuramente lo senti. Sì, sento delle voci che parlano, ma non si capisce però quello che dicono, è come se ci fosse qualcosa tipo un televisore in sottofondo, qualcuno che parla, insomma. Certo, la TV accesa, sì, però fuori ancora c'è, qua a fianco stanno usando la mola, la moletta, insomma, sto facendo un taglio, e la vita cica a me sta dando fastidio. Sì, perché poi ti disturba anche l'antenna se ce l'hai vicino, quegli apparecchietti sono micidiali, fanno l'antenna percepisce, sei sensibile anche quei rumorini lì e magari ti dà fastidio anche alla radio. Cavolo, è aumentato nuovo il QRM, cavolo, ieri era a 5, adesso è a 7-8. Vabbè. Sì, ieri lo stesso, non ieri, forse avanti ieri ho acceso, si sentivano gli Stati Uniti parlare, si sentiva il Brasile, capito, ma in AM arrivavano a tratti anche Santiago 9 qua a casa mia. Cioè dentro casa ce le avevi poche parole. Esatto, però è durato se no un'oretta, poi è scesa la propagazione e alla fine ho spento tutto, capito. Cavolo, di solito si apre verso mezzogiorno, dai, quell'ora lì, sia la sera, sin quanto dura, capito? Però ancora, ripeto, io qua è tutto tace. Sì. No, io se abbasso lo squelce già mi entrano, adesso l'ho messo un po' alto, se no poi come stacco, prima che tu riattacchi si sente troppo alto, capito? Niente, adesso mi riposo un'oretta almeno perché sono in piedi dalle 4:15, magari ci risentiamo stasera se ci sei, Daniele. Ehi, a Carlo, dai, tanto anche io stacco un pochino adesso. Buon proseguimento, buon riposo e a più tardi se coincide, dai. Cara mia, già ci sentiamo, grazie del piccolo QSO, niente, dai, ci sentiamo alle prossime, piacere di averti risentito. Campo di rosa è troccato anche a me, dai, contraccambiato tutto al 100. No, bye bye. A dopo, Carlè, dai. Binario 10, copia Grande Unione K. fenomeno. Se lei fosse stata un po' meno gelosa o meno nervosa, un po' meno, ma se io se noi avessimo dato all'amore la giusta importanza, se noi amare vuol dire anche a volte annullarsi per dare. Tutto a posto, e tu? Io qua, mando giù. E a voi, arrivi benissimo. Sì, perfetto. Domani oggi è una bella giornata, cazzo, c'è caldo fuori. Oh, a volte non propagazione, niente. Sì, che propagazione vuoi oggi? Domani, se piove, mi vedrai, ci sarà pure propagazione, ma oggi proprio non lo puoi scordare. Non è così facile, no? Tu vuoi troppo? Come ti che stai stacchi l'antenna, mi senti lo stesso? Probabile, niente di strano, sta so. Staccando anche l'antenna che non mi senti da sotto, a voglia. Eh beh, sei lontano, siamo. Linea d'aria quanto è? Lo sai che c'ho le smicche regolare, no? Devo cercare la resistenza. Stasera si è giocata, mi porto su il cone 4000 che sono uguali e così guardo il valore. Andiamo a piazza. Così c'è di nuovo la ricezione perfetta. Poi tutto il resto è a posto per la fine. E perché quanto ti segna? Massimo 7 mi segna, capito? Prima segnavano 9.20, 9.30, adesso massimo 7. C'era un condensatore, l'ho cambiato e poi c'era una resistenza e nera, hai capito? Solo che il valore non si legge, quindi a un certo punto nello schema elettrico su Google non si capisce da fanculo, perché la fotografia è fatta male, tutta scoccata. Allora balla ti l'altro per abbaiti e non comparecchi da fusare, penso che gli altri trovi il coso, no? Ah, già guardo lo schema, guardo lo stampato delle, come si chiama, che sono precisi, insomma, monta le stesse cose, c'ha l'eco, c'ha il resto, il modulatore è grande, quindi non mi costa niente controllare la resistenza che ci vuole, e con le 4000 così me la piazza ed è perfetto, capito? Poi per il resto va bene, trasmissione non c'ha niente. Lo senti, lo sto usando tutti i giorni. Lo ripari, non c'è problema. Lo ripari e via. Cioè più di 7 non ti sale, così è. Esatto, più di 7 non mi sale, infatti. E quindi non è il trimmer, capito? È la resistenza che in pratica è attaccata al modulatore, che alimenta il come si chiama, transmitter, sia in trasmissione che in ricezione. Cappa, mi ha dato il ciccosi, funzionava il tuo palle. Ti saluta Roberto, ti saluta l'amico di Emanuele. Roberto, amico di Emanuele, Emanuele Pesce. Sì, io sono un giorno che non lo vedo Roberto, figurati. Anche con Emanuele mi vedevo una volta, poi adesso la cosa sta guardando al comune, è sparito. Ehi, io che fanno la FIFA, già. saluta. Ehi, saluti ricambiati da parte mia, di non c'è problema. Capo, ma io c'ho una tipa avesse piatto l'antenna. Una tipa avesse piatto l'antenna? Quando pure la posso pensare? Mi ha pensato tante di antenne a ragazze, a chi? Basta che paghi. Appunto, basta che paghi. Non c'è problema. Non sarà vecchia, no, cazzo. Di quelle vecchie decrepite, no? Già è giovane, cioè. Ho capito, allora. Ho detto se è vecchia questa ragazza o giovane. Via. 15 anni già va bene. Magari paga anche in natura. E così mi ti volevo in galera, non saranno. 26 anni la puoi toccare. Sì, 26 anni sì. Io non so se quella poi... capito? Ti vengono i crisi piedi che mi devo sapere dove si accannare, non sarei matto. Oh, yeah, scherzando siamo. Questo bisogna mai fidarsi, lo sai, delle apparenze. Ma se mi si mette a gridare me, toia, devi fuggire, ragazzo. Con il tempo che siamo, mi adesso stavo cercando sudi, ragazzo, l'hai visto? Su Google, cerco ragazzo benestante per sposarmi e poi altro. Grande Gucci è l'occhio alla storia. Ma già ci sono le maniaci su Google, è pieno, su Facebook già è pieno. Per carità. Già mi diventa chiudere tanto, capito? Io avevo scritto a una, che bella testa che c'ha, immediatamente a casa, abbiamo mandato le... di non permettermi più a scrivere una cosa del genere. Hai detto, va a far culo, tu e il coso. Cosa gli avrebbe fatto, le cose di amore gli avrebbe fatto qualcuno che conosco io. Poi anche io ogni tanto scrivo, ma come sempre, capito? Scrivono tutti, ma sai quanta gente c'è che è sposata che scrive lì? Avesse si fa l'avventura, hai capito? C'è anche il Sassari, c'è, figurati. Io sono su Dieting, c'ho Dieting, io c'ho. Io ho i ragazzi di Sassari, di Cagliari, capito? Sai la cosa? La foto eccetera eccetera, e poi se alla persona, se alla persona ti piace, ti mandi il cuoricino e ti arriva il messaggio che pratica tu piaci a lei e uno lei piace a te, il discorso è quello. Puoi incontrarsi, non lo so, boh. Non ho mai scritto niente di quella domanda di incontrarmi, era la borsa. Magari mi trovo qualche maschio bisello, ragazzi. Addirittura, che sta fighito. Oh, bisogna stare attenti, Ma da voi che ci vuole affretto? Sì, c'è un periodo di guerra, capito? Quindi un po' di gente c'ha fame. Addirittura, già, se è vero c'è quello che stai dicendo. Non bisogna mai fidarsi di nessuno. Quando c'era il lockdown che non si poteva uscire, ma sempre ce n'era, di tutti i tipi ce n'era. Poi a parte quello, la roba costava il doppio, perché io avevo tirato di qui monoculassi che ha, capito? Avevo pagato 56. Dopo 3-4 settimane sono andato dai cinesi, l'ho visto uguale, ho detto quanto viene, dice, tu vicino, e giù, cazzo, mi hanno inculato come uno scemo, gli ho detto. Però ho detto 56, più con le spese di spedizione. Dai cinesi costava 13, preciso identico, c'è la data per la cancella del telefonino e fare le foto. Avanti se ci vuole qualcuno che vuole entrare. Ah, beh, quello sì. aspetta. Non ce la fanno a mettermela. Oh, a te vieni proprio già fuggata, vedi? Quella sì. Se vengono sto casa tua, magari te la posso mettere. Ma non ce la fanno, se in via Milano si avvicina a me di Arabia. C'è qualcuno in macchina che non riesce a dare. Ti vuole entrare, che il radio proprio non si riscende. Guardati il microfono, se dagli un colpetto. Avanti! Cara! Ma proviamo a dire un caso. Chiama seduta, ti portano se sei di tuo. No, non è lui. Magari si è fermato a controllare il microfono. Chissà che è malato. Non so, ho segnale che era oscillante. E l'ho visto anche oscillante, il segnale 6, 7, 5, addirittura anche 3 a volte. A me mi è arrivato anche 9. Secondo me c'è il marking è a zero. Sì, sono qua. Sì, mi ha squillato il telefono, dovuto rispondere. Io ricordo che sia per lavoro poi. Questi pari miei, vabbè, se ce la posso. Ah, ok, allora già va bene. Gatto, che tu devi fare sta che c'è a casa mi arrivi 9:20, mi scullano ciò l'altra, Eia. Sale la propagazione. Beh, Marco. Santone, stavo spazzolando in HF, però poca propagazione. Adesso sembra che stia decollando, almeno qua in 27. Piano piano stanno cominciando a lievitare i segnali. Sì. Domani se piove vedrai già sale la propagazione. A voi. Eia. C'è Marco, questa era che è entrato. Eia, Marco! Ma chi era Marco era quello là? No, Marco è iniziatore in fissa, già lo sai. Buonasera Marco! Ehi, ero sul 13 a fare una prova. Ciao a tu. Si sta lievitando la propagazione, piano piano vediamo se se diventa bella più tardi, come gli altri giorni, si può provare a fare un collegamento. E beh, come va tu? Ma tu come mai sei in sede? Stai rispondendo al telefono delle chiamate per le bombole? Prima andavi più in strada invece a consegnare. Mi già richiamando stanno. Caso di farmi morti, porti la bombola dell'ossigeno. Fra un po' ci vuole a me la bombola dell'ossigeno, c'era un caldo oggi. E a fare le salite alle scaline mi viene questo fiatone che non ti dico, Antone. Dice, adesso qualcosa io mi sono andato a fare un impianto d'antenna in via Coso, in via Tempio, in questa palazzina. E sono fatto 5 piani e c'è il terrazzo simile al tuo, cerca. Quando sono qua con i ferri, non riuscivo neanche a qua, c'avevo un fiatone, cazzo, ci ho fatto qua di raggio e mi scendevo con l'assa a me qua. Allora ho preso i fili, li ho lasciati giù, li ho lasciati, mi sono parlato solo quello che mi interessava. Hai il cacciavite, la pinta è una 10, la 11, la 13. Caspita, senza ascensore, tutti quei piani? Sì, senza ascensore, tutti quei piani, da piano terra fino al quinto piano. Cazzo, non l'ho mai fatto, guarda, ma... Vabbè che l'allenamento l'ho preso per salire le scale, ma cazzo... Quando arrivo adesso fa molto, mi sono seduto, una mezz'ora poi ho preso e sono sceso. Ho controllato le... Se da quanto sono salito a piedi, diciamo le gambe molle molle, non riuscivo neanche a saltare per salire sopra il tetto. Eccomi qua, dimmi fra un pochettino gliela porto. E adesso vi faccio come si chiama, posso starmi a casa, prendo me l'escono tutti i giorni e faccio una bella passeggiata a piedi, sali e scendi, da qua al centro storico, al centro storico a qua come facevo prima. Cazzo, c'ho i muscoli che sono molti, a poter stare in casa e seduto dalla sedia al televisore, dalla televisore alla sedia o a letto. E quindi è un casino, con questo lockdown, guarda, ma l'ho rovinato, basta, esco solo qualche volta, mi fa la spesa, poi immediatamente mi chiama Simona, io quando vieni, quando ci metti ad arrivare, e se sono da sola, non mi reggo in piedi, cose del genere, quindi tocca salire con la busta in mano, l'altro giorno mi ha lasciato capire quel coglione del cosa, dell'autista del tram. Perché cioè, a posteriore per la maschera FFP2 avevo messo la celestina, avevo messo, ho giocato là, sono uscito comunque la veloce. Ah, si è fermato, è uscito fuori, da come si chiama, dice la signora può entrare senza maschera, hai capito? E io no, ha detto, ah, faccio una cosa, vai a fare un culo, gli ho detto. E ha detto, si guardi bene, gli ha detto Google, che il dottor Bassetti gli ha detto, il primario dell'ospedale di Genova ha detto che l'FP2 ce lo devono attaccare in culo per l'Omicron 2 e l'Omicron 3, non serve a niente. No, che l'abbiamo fatto lo scandalo io. No, a mai entro pure io, a posto di Maracana. Cioè, se non la faccio, non ce la mette lei, non la, me la metto manco io. Per me sarà un via in culo con l'autista, speriamo che rimanga lui qualche giorno a piedi, in macchina, quello voglio vedere, cazzo. Oh, per carità, ma quando se ne è? Sono quanto? Ti stavo chiedendo, ma tu come mai sei in sede? Prima portavi le bombole sempre tu, adesso rispondi anche alle chiamate. Qualche volta sì. Sì, ma è più noioso stare posati in ordine, perciò hai messo il baracchino. Adesso rimane l'estate, c'è meno lavoro, quindi me adesso ne vuoi uscirne a regarne una. Allora sono carico, mi carico la macchina e sto a portarne una. Qua c'è un via con la mappa, devo salire. Sì, comunque richiesta ancora ce n'è, sì, tipo per il riscaldamento, per le stufe, ne stanno chiedendo. Sì, non le prendete da noi, cavolo. Vabbè, ma io la mamma è abituata a quello là. Ah, ma sai perché chiamavamo sempre quel numero, 290287, perché era Pistolucci che era qua in Viale Trento, no? Poi vabbè, ha cambiato sede e lui non c'è più. E ci avevamo quel numero da 40 anni e continuavamo a chiamare, se tu mi dai il numero un giorno proviamo, ti lascio un vuoto e me lo porti tu, se mi fai un prezzo anche migliore, meglio ancora. Io l'ultima volta l'ho pagata da 10 kg 28,50, portata a casa. Uguale, come la vendiamo noi? Sì, prima era 27, poi con questo casino dei trasporti e 1,50 euro in più, credevo peggio però, meno male che ancora non è molto costosa. Invece il kerosene, mi ha detto mia zia, è aumentato in maniera esorbitante. Aumentato l'usura, vabbè, ti mando il numero, darci una mano a lavorare, capito anche, capito. Sì, infatti, tanto l'uno o l'altro, l'importante, siccome tu sei lì in alto, sei molto, oddio, distante non credo più di tanto, insomma, tu tutta Sassa ricopri o fai solo certe zone? Tutto Sassari. Eia, va bene, Antonello riprendi. Eia, vediamo se quello in macchina si è sistemato il microfono, avanti se ci sei ancora. Senti, senti la propagazione, allucinante. Senti la propagazione, Antonello, allucinante. Sentiamo quasi uno, tieni presente che io c'ho lo Smith che più di 7 non sale, cioè 7 e mezzo per esattezza, non sale. Adesso... Poi del resto il coso balettina già funziona bene. Non è il modulatore che rompe le balle di trasmissione, solamente il modulatore per alimentare i due wattmetri, quello di trasmissione di eccezione. Te l'ho mandato, Marco. Dopo me lo metto in rubrica, dai, che ho il telefono in carica. Che quando serve il suo telefono è sempre scarico. Oh, d'altronde c'ha 3 anni, quello smartphone mio c'ha 3 anni e 3 mesi. È un bemmi. Si funziona bene già. Cioè, se di buona qualità dura anni e anni e anni il telefono. Sì, era un Huawei. C'avevo già 3 anni fa l'avevo preso con 4,64, 4 giga RAM e 64 di memoria, ma sono tutti vuoti la memoria fisica che c'è dentro, ne usi pochissima alla fine. Quindi l'unica funziona bene, tutto bene, l'unica cosa, la batteria non dura più come una volta, quello è ovvio. Per il resto mi è caduto un bel di volte, anche con lo schermo sull'asfalto, mi è volato di mano da 1 metro, non si è mai rotto lo schermo, mai, e ne ha preso un di cadute. Lo schermo è quello, fuori la flax, capito, di Simone, è molto buono lo schermo, è come il mio, no, io no, non ho mai preso il colpo il mio, mai. Lo tengo bene. Ok, dai, va a portarti qua, rientro dopo. Ok, riprendete voi. Eia, allora. Eia, a dopo. No, qua non c'era Gorilla Glass, né pellicola, né vetro temperato, nulla ci ho messo. È proprio un vetro normale, infatti si è stupito, un amico si è stupito che mi è caduto tante volte proprio sbattendo il vetro anche sull'asfalto, no? E con un bel socco non si è mai rotto. Il suo gli cade da 30 centimetri, tac, tutto rotto lo schermo. Io glielo ammetto, l'unico che non si è mai rotto è Nokia Lumia, quello che ho io con la lancione. Lo sentava un paio di volte, sempre nuovo, ma con graffio c'è. Per le Windows 8. Hai detto poco fa che c'era qualcuno in macchina che doveva provare il microfono? No, che non esce in radio, ma te l'ho chiamato, vediamo se si è sistemato il microfono. Avanti, Enrico. Nulla, anche qua portante muta, non si sente voce, audio. Senz'altro, ho dato la capsula, ma se no c'è la batteria a zero, cosa ne so. Però il radio non esce, ma il macchinino non penso che sia. Ariecchime, va bene, adesso vediamo se pompa la propagazione, poi vediamo, dai. E già pomperà, non ti preoccupare. Poi i brasiliani in questi giorni si sentono, ma stavano parlando di quadri cubiche, cioè loro hanno antenne mostruose, le puntano verso l'Europa o verso est, insomma. Già credo che arrivano 9 e 9 più. Credo bene, sì. Sono 9 di solito, ci sono di sera verso le 8:30, le 9, tu vai sul canale 9 e pieno di propagazione, dovrebbe essere lì dalla sud coso, dall'Argentina, cosa ne so, parlano in spagnolo, avanti. Buonasera, saluto e circolare a tutti. Buonasera anche a lei, Daniele, ben sentito. Ciao Daniele, ben entrato. Grazie, grazie. Allora, dove si dice? Nulla, cosa si dice? Siamo in casa, la bella giornata, oggi è una bella giornata, la portavola mi. Lì a prendete il sole, a mettete in spiaggia, capito? E allo stile. Oggi sì, oggi è una bella giornata, fatto fare. Anche se ha messo pioggia da stanotte in cui, Speriamo che piova domani, se deve piovere non penso. In Sardegna proprio, lo sai, poca roba fa sempre. Guarda, io già non posso uscire ancora. E cosa c'hai? Sì, la faccia verde sono in malattia io ancora. Ah, sei malattia. Ebbene sì. Antonello. Ehi, a chi è? Dammi il controllo. Segnale di 5, caro, radio 5. Già va bene. La voglia che va bene. Più di così se muori ci va quello. Avanti, Marco. Sì, fai un passaggio lungo, Antonello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fatto. Una regolazione, fatto. Stavo regolando lo smittere. Poco da fare, c'è qua, è a LED, c'è 3, 5, 9 più 30, non fa. Se lo smette, cazzo, che monta le 740 guai, grazie per organizzare. Stasera se trovo anche marocchino che mi dà 30, 40 euro, glielo do subito, glielo do, grazie. Avanti, dai. Vecchi, ma io sono qua, dov'è? Come sono, noi? Ho attaccato il drone. Perché? Da ieri questo alimentatore serve in protezione, boh, l'ho fatta anche oggi. Hai dato venne una. Stava che vale protezione con l'alimentatore, ma cos'è quello cinese? Ehi, Antonio, c'è lui. Allora, me? Sì, poi se sei sceso di segnale puoi essere risalito subito. Sei stato negli Stati Uniti? Già mi sento anche io adesso. Adesso ho spento. Sono andando lì, so come lui. Non lo so perché sta facendo così, Antonio. Antonello. Eia, dimmi. E adesso come il segnale? Il segnale 4 quasi. Ok. Ti ripresenta che c'è lo smitter e non è che sia perfetto lì, però dovresti essere intorno al 5-6 come normale, capito? Ok, va bene. Eia, d'accordo. Regola, già siamo qua. A Maneta sta arrivando questo. Lì dove sei tu, già arriva, non sia Maneta, ci sei di fronte, cazzo, già ho guido. Aspetta appena sarà l'operazione che si mettono a bestemmiare, tra loro. Sentirai New York, Kentucky. Qui c'è un audio che è una cosa allucinante. Sì, conferma. Aspetta, vorrei se. Cosa succede adesso? Aspetta. Guarda adesso, tempo. Vabbè, qua è tutto a posto, che il cambierietto. Voi volte si attaccano alla venturina, quindi come scala serve in protezione? Allora sentato la ventolina, a me si sente la ventolina delle cose. Ma stai ciambabila la ventola, ce l'ho una, quando vuoi venire te la prendi, tanto è grande, la voglia ti basta. Ma io ce l'ho direttamente, diamo un altro lì, gemello di quello, Fufu. Però bisogna devo capire che poi metteranno problemi, se no glielo tolgo, quello li metto il mio. E gli faccio il collegamento e ci chiacchiamo un rock and roll, capito? Come metto problemi. Senti come fare così, perché se non si attacca la ventola te la fa scendere l'alimentazione a zero, ricordami. Poi rischi di... che magari si crepa un transistor, ti dà a posto di darti 12 volte, te la 18 o 20 e ti fa saltare l'aria in baracchino. No, questo solamente per il drone, Antonio, capito? Perché siamo 24. Ce ne sono due dentro. macchina arriva intanto da solo, con l'altro arriva intanto al capito. Aspetta un secondo che gli apro il tappo, va bene. Sto venendo adesso. Meia. Bello, ma è bellino, non voglio che c'è bello. Buon pollo. Eia. Come ti arriva adesso? Andate si abbasciato un bel. Sono stato anche io, dai. Da così. Prova. Da così. A così. E da 2.5 a 3 sei salito. Come? Così va meglio. Allora sei attaccato. No, tanto è una grande. Ah, adesso va bene. È accettabile. E quant'è adesso? Sei a 3 questo smite del Saturneco, però vai solo a futtidini del 3. È come se fossi Santiago 5-7, capito? Normale. Vabbè, sono fuori, capito? Vabbè, anche se fuori Tony va benissimo, perfetto. Adesso ti sento almeno, ma poco fare un'e mezzo. Potresti ancora a migliorare. Ok, dai, continuate. Eia. Mi piace tutto il tappo, ma così se le dà un po' alto, questo adesso me lo sta girando e questo mi sa di no invece. Brava, ciao, me lo smette Marco, ciao, grande, meno male. No, stavo rispondendo a Marco. Hai visto Antonè? Vabbè, quello non puoi regolare niente con lo smittere, cioè inutile anche regolare, non sono fatti così per avere, cioè puoi leggere 3, 5, 9 e il più 30, ma non ti dà le cose intermedie, quindi inutile tararlo. Vabbè, quello sì. Come lasciarlo così com'è, se la piglia in Napoli. Sì, infatti, non c'è un baracchinetto così. Va bene. A voglia, a voglia, gli va bene, a voglia. Te l'avevi ordinata quell'antenna tornato? Sto aspettando i di là i contanti che me devono dare. Sì, se vuoi ti mando il manuale di istruzioni, così leggi già tutto, l'installazione, poi vedi le figure, tutto. Vabbè, quando arriverà già me lo leggerò. Cosa vuoi dire? Vabbè, adesso appena arriva qualcosa faccio l'ordine, sperando che sia ancora 98, se no se la piglia in culo. Sì, ho guardato il prezzo, mi sembrava ancora quello, ma la spedizione è compresa o devi pagare la spedizione? No, la spedizione è compresa, più di 10 euro di sconto ci sono. Questa c'ho stazionale 1,5, qui ci ho messo la VHF vicino, è lontano un metro, qualche cosa lontano, quindi sono sicuro che è un problema di faro o di antenna, e evidentemente la bobina, quella nera che c'è, quella smontata, l'antenna tutta, c'è la bobina in quella in rame, già lo sai, che parte sotto quella bobina grande, e senz'altro la bobina sarà ossidata e quindi non sta facendo contatto. Se mi metto a pompare rischio di trovarmi stazionare a 3 e sconducermi tutto come ha fatto, ma tanto già costano poco i finali, IMRF 422, 67,1. Ah, quelli a croce, io. Da Cina costa 84. Adesso vediamo un po', l'ho chiamato Vittorio un'altra volta, gli ho detto adesso sto aspettando, ho detto che apre il garage di lavorare, ma che lui quelli ce li aveva e quegli MRF buttati nel corso, lì in laboratorio. Mi sembra c'erano 4 o 5, se pulendo, come si chiama, quando mi chiamano per che devono buttarci la roba lì, ci vado e me li prendo. così mi risparmio i soldi. E comunque una bella antenna, c'è la bobina tipo mantova in vista, in aria, no? Non dentro tubetti o contenitori di plastica. E che altro? È più leggera di una normale 5 ottavi, Antonelli, cioè non avrà la robustezza della mantova, sarà materiali sono un po' più sottili, diciamo che è una via di mezzo tra la Energy e la mantova come robustezza, però più tendente all'Energy. Sì, ho visto, però la bobina sua, lo stilo, non ce l'ha, c'era solamente la base, capito, la bobina, e l'ho vista così. Poi ci sono, vabbè, quelle antenne cinesi che bobina addirittura non si vede nulla, c'è questa cosa gialla sotto, gialla sopra, e c'è, è fatta una 5 ottavi e l'altra è mezz'onda, non sanno una cazzata. Però non ne trovo una cosa del genere, quella da primo momento me la tocco giù, me la tocco, capito? Fino a morto, vediamo un po', ma non sarà il momento, vabbè, adesso c'è anche la crisi, come si chiama, quindi i prezzi sono saliti, vedrà che se finisce la guerra, i prezzi scendono immediatamente. Questo è un fattore lì, i tappi. Sembra sono dentro una scatoletta, accoppiati sono tutti e due, capito? E vediamo, se non lo fa vuol dire che stanno surriscaldando troppo, non stanno dissipando il calore. Ma mi sembra che tu c'hai 12-12-24, così. Ehi, sono accoppiati dentro una scatola di compensato, diciamo. Accoppiato, però sicuramente non stanno dissipando bene il calore, perché non hanno fatto niente, tutto come prima, capito? Ora la cipolla. Ho capito, se tu compri che hai fatto bene, a me lo respira un po'. Quindi c'è una ventola, fra i fuori ci mette una pratica, una ventola che aspira da fuori e butta l'aria dentro, a posto di essere al contrario, perché loro l'aria dentro te la buttano dall'interno verso fuori, invece tu dovresti fare il contrario. In quella scatola gli fai il fuori, tira la ventolina, gli fai un tondo, gliela installi, mi fai in pratica l'inverso di quello che fanno con le ventole invece che montano con l'alimentatore. Quindi ti manda l'aria dentro. E sta facendo la mia storia di altri coperti sopra, ma poi. Tanto lui senza lì sopra non si vede. E respirano. Daniele, tu adesso stai usando una Grand Plane o una mini Grand Plane? Grand Plane grande. Ehi, ma spunta dal palazzo, sì, già non è aderente al muro, no? No, è alta più dal tetto, capito? C'è solamente un radiato, vabbè, sarà già 50 cm abbondato, la parte più bassa che la gente è aggrondata, ma già è distanziato bene. Beh, l'importante è quello, che il radiatore sia al di sopra delle, che non abbia il muro a fianco, ecco, bene, bene. E anche io mancavo un radiato perché non ci stava proprio fisicamente, capito? Ma essenziale sono 1-1, non guarda, sono attaccato e 1-1 si muove, non di più. Sì, e conta che la boomerang ne ha uno solo, funziona lo stesso, certo qui ce n'è, magari meglio è, ma funziona lo stesso. È deciso per la, come si chiama, G-Tech, no, Smart Tech. Una J-Pol, cavolo, bella che organizza, se organizzo si può anche fare. I materiali sono di prima scelta, è molto curata, come la Grazioli, anche la Smart Tech sta facendo una roba fatta bene, non come le Ringo, eccetera. Tu sai come funziona quell'antenna, sì? Sì, ho visto le caratteristiche, è molto, molto bella come antenna, soltanto che il mio problema, tra virgolette, è che magari essendo così alta, come flette corrette le fa forte il palo, capito? No, ma dicevo, sai che appunto la sezione che irradia è quella che c'è oltre, più su di quel tubo parallelo, cioè quel tubo parallelo che c'è al lato, no? Con la prima parte dello stilo, per un quarto d'onda, non irradia, fa da sezione accordante, fa da adattamento. Quello irradia veramente è la mezz'onda che va lì sopra di quel tubo parallelo. Praticamente è come se stessi trasmettendo con una mezz'onda, capito Daniele? Sì, e poi quando lo metti in basso, lo metti in alto, lui vi abbassa la prova. Ah, poi ho visto una cosa un po', quello non va bene, perché l'antenna è fatta bene, però che uno dichiari 8,9 decibel dB di guadagno non esiste. Il guadagno di un'antenna del genere è paragonabile alla mezz'onda, quindi 2 decibel, dBi, come vuoi dire. Purtroppo quella parte di sotto non è radio, te l'ho detto, serve da adattamento per farla lavorare, capito? Quindi praticamente è come che tu usassi una mezz'onda messa 2,70 metri più in alto. Vabbè, io vi allontano un attimo, che devo uscire a portare San Piero in corso. Ci fermo, ci sentiamo dopo, là. Ehi, Antonio. Già siamo qua, dai. Buon proseguimento e buon tutto. Ehi, ok, a dopo, ciao. Sappa Antone, e io fra poco devo andare in edicola a pigliare roba, vediamo se è arrivato il giornale della TV. Avevo un caglio, mamma mia, avrei preferito il cielo coperto. Comunque sì, materiali eccellenti, fa tanti vari modelli, insomma, però quella è per la 27, quindi certo è imponente come dimensioni. Quindi stavi tenendo un po' al limite, la metti un po' meno alta, però tanto ricordati che il radiatore è la parte finale, quella al di sopra di quel tubo parallelo, te l'ho detto. Eh sì, fatto pensare, vedi, tolgo l'ultimo elemento di palo, che sarebbe quello che si usa di solito a darci le antenne della TV, dai, che sono fatti su locali. Lo metto al penultimo elemento, e lo lascio a vela, perché quello magari fa troppo una vela e rischio di farmi lo storto come aveva fatto con l'altra. Guarda, se non vedi radiali, magari era bella una 5 ottavi, ma se non vuoi avere radiali, rotture di scatole di quel tipo, una è quella lì. La Game Master non mi sento di consigliartelo, perché boh, a me che si antenne di tipo tubo di plastica col cavo dentro, non mi ispirano, a me piace l'alluminio. E quindi, poi se vuoi che duri, deve essere fatta bene. Materiali di eccellenza, fascette in acciaio inox, mi raccomando, quelle che tirano in serie presumo che siano in acciaio inox, quelle buone, anche quelle robuste, ma nel caso non dovessero esserlo, anche se dubito, le prendi da Bricomen. Io avevo fatto così per la Ringo, però poi si era sfasciato il resto dell'antenna si era sfasciato. Le fascette hanno tenuto a me. Eh sì, io purtroppo qua sono vincolato, ho messo a tavola e mando fare all'arco. Ed è un casino, capito? Devi fare uno sforzo allucinante per farli scavalcare, va. Non è così semplice. E vabbè, adesso vediamo, dai, se mi attrito magari si mette una 5 ottavi di serie lo stesso, anche se c'è radiale. Sto aspettando sempre questa bella risposta. Vediamo un po', dai, c'è tempo. Ah, la mantovana è quella che sporge di lato, ho capito. Solo che tu, Daniele, una volta che tu hai superato col palo la mantovana, il problema dei radiali non sussiste, a meno che non ti diano fastidio perché le cornacchie si posano, li spaccano, eccetera. No, il problema è far superare dal terrazzo che c'ho, no, perché c'ho il terrazzo con lo spiavento lati dal tetto, poi, no? E farlo sporgere, farli scavalcare proprio fisicamente i radiali, capisci cosa ti intendo dire? sì sì, cioè non devi scavalcare solo la mantovana, devi arrivare insomma oltre il terrazzo radiale, ho capito. E allora gira gira, forse la scelta migliore davvero la G-Max, com'era la sigla? Ma G-Max, scusa, Smart, che il modello 27 DV, GV, non mi ricordo. J-Pole. Ehi, J-Pole, ma mi pare di aver visto una sigla. GP sarà, forse la giornata, capito, le due lettere per accorciare, no? Va bene, va bene. Quasi quasi io stacco, tra 3 mesi e ancora non è aperta, vabbè, mi vado a bere qualcosa, Daniele, lascio acceso e mi dedico a altre cose, dai, poi già rientra Pomponio, o Bomolo, dalle consegne, eccetera. Ci sentiamo, Daniele, buon proseguimento di serata e buoni di esami se li fai. Adesso qua ci sono, questa regola cantone, là, c'è quel trovo lì, ma sono stato a farlo respirare, quello ha detto, e poi ci aggiungiamo dopo, dai, se coincide. Ebbè, sette mala! Lui! Allora, sono rientrato! Ce ne siamo accorti, riprendi Marco! Ehi, ciao Antonio, mi stavo proprio staccando adesso che vado a fare un attimo una cosa in casa e poi devo comprare il giornale della TV. Ci sentiamo, dai, buona proseguimento di serata e sentiamo quando capita. Ciao, vai Antonio. Ehi, Kappa. Ciao Marco, ce la risentiamo alla prossima. Ciao. Antonio, vengo contro scambio. Avevo i quattro, ce ne voglio due a paio.